Capitolo terzo. La liturgia della parola. La messa è costituita da due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Esse sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Entrambi i momenti hanno grande importanza. Ascoltando la parola di Dio nasce o si rafforza la fede. Romani 10:17. Nell'Eucaristia il Verbo fatto carne si dà a noi come cibo spirituale. Così, dalle due mense della parola di Dio e del corpo di Cristo, la Chiesa riceve ed offre ai fedeli il pane di vita. Pertanto, si deve costantemente tenere presente che la parola di Dio, dalla Chiesa letta e annunziata nella liturgia, conduce all'Eucaristia come al suo fine connaturale. Magari si rafforzasse nell'anima di ogni cristiano la consapevolezza della singolare trascendenza della parola rivelata. Con i testi rivelati, il cielo ha voluto rivolgersi agli uomini di tutti i tempi. Se valutiamo questo intervento direttissimo di Dio nella storia, non c'è da stupirsi del fatto che tale comunicazione soprannaturale abbia provocato conversioni, maggiore intimità con il Signore, stati di passione mistica nelle anime innamorate, generosità nel disporre di sé. Ragion per cui è davvero necessario che il cristiano legga, ascolti, mediti a fondo la parola di Dio. Dialogo tra Dio e il suo popolo. Il dialogo di Dio con gli uomini per renderci partecipi della vita divina iniziò già nel momento della creazione. Fu Dio a prendere l'iniziativa. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. 1 Giovanni 4,19. Tale dialogo non poterono interromperlo né il peccato originale né le successive offese del genere umano, quelle di tutti gli uomini e di ciascuna persona in particolare. Come ha scritto San Josemaria, Dio è intervenuto sin dal principio dei secoli, parlando al cuore dell'uomo, chiamandolo in mille modi, facendogli sentire la necessità del divino. Intervenne in modo particolare per mezzo dei profeti e alla fine per mezzo di Cristo. L'incarnazione e la nascita del Verbo segnano il vertice del dialogo del Signore con l'umanità. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Giovanni 1, 17, 18. Nel salire al cielo, dopo la sua morte e risurrezione, il Signore promise che non si sarebbe mai allontanato da coloro che avrebbero creduto nel suo nome. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28, 20. Ha compiuto la sua promessa principalmente restando nella Santa Eucaristia ed anche in molti altri modi, tra i quali si distingue in maniera speciale la sua presenza per mezzo della scrittura che si proclama nell'azione. La parola di Dio non è né mai sarà lettera morta. Conserva tutta la freschezza delle realtà divine e comunica in modo particolare l'interesse permanente, vivace del Signore per le sue creature. Sicuramente, quanto più si medita questa parola rivelata, tanto più si scopre la vicinanza di Dio all'uomo. Davvero si ripete, proprio grazie all'incisiva attualità della Sacra Scrittura, la reazione di coloro che ricevettero l'incarico di arrestare il Maestro. Mai un uomo ha parlato così. Giovanni 7,46. Addentriamoci in questo tesoro che lo Spirito ha messo a nostra disposizione. Sin dai primordi, la Chiesa lesse e meditò con riverenza la parola di Dio, specialmente durante la celebrazione eucaristica. Uno dei più antichi padri della Chiesa ci ha lasciato una testimonianza eccezionale in proposito. Scrive: «E nel giorno detto del sole, la domenica, riunendoci tutti in un solo luogo dalla città e dalla campagna, si fa un'assemblea e si leggono le memorie degli apostoli e gli scritti dei profeti fino a quando vi è tempo. Poi, quando colui che legge ha terminato, il presidente con un discorso ammonisce ed esorta all'imitazione di queste buone cose. Insieme ci alziamo tutti ed eleviamo preghiere». San Giustino Martire. In questa densa sintesi, San Giustino attesta come la messa si svolgesse nel secondo secolo, praticamente così come si svolge ai giorni nostri. Concretamente, durante la liturgia della parola si leggevano brani dell'Antico e del Nuovo Testamento, soprattutto del Vangelo, le memorie degli Apostoli. In seguito il celebrante pronunciava un'omelia esortando i cristiani a comportarsi secondo gli esempi ascoltati. Ciò che Dio ha rivelato deve informare non soltanto la nostra mente, ma tutta la nostra vita. Sant'Isidoro di Siviglia, riassumendo il comune sentire della tradizione, sottolineava che doppia è la finalità che dobbiamo proporci nel leggere. Innanzitutto occorre cercare di comprendere il senso della scrittura e poi sforzarci di proclamarla con la maggiore dignità possibile. Di conseguenza, così come mediante la lettura dimostriamo il nostro desiderio di conoscere, analogamente, dopo aver conosciuto, dobbiamo sentire il dovere di mettere in pratica le cose buone che abbiamo imparato. I nostri primi fratelli nella fede seguivano l'esempio del Signore. Il Vangelo, in effetti, segnala che di sabato Gesù era solito entrare nella sinagoga e commentare qualche testo della Sacra Scrittura per mostrare come quelle parole trovassero compimento in Lui. Cristo rivela il Padre. Egli è la luce che viene nel mondo per dissipare le tenebre dell'errore e riempire la terra con lo splendore della Sua presenza. Come spiega Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica sull'Eucaristia, Gesù ha qualificato se stesso come luce del mondo, Giovanni 8,12, e questa sua proprietà è ben posta in evidenza da quei momenti della sua vita come la trasfigurazione e la risurrezione, nei quali la sua gloria divina chiaramente rifulge. Nell'Eucaristia, invece, la gloria di Cristo è velata. Il sacramento eucaristico è Mysterium Fidei per eccellenza. Tuttavia, proprio attraverso il mistero del suo totale nascondimento, Cristo si fa mistero di luce, grazie al quale il credente è introdotto nelle profondità della vita divina. Cristo, nostro Dio e Signore, ha istituito l'Eucaristia per salvarci e per rimanere con noi. Non comprenderemmo tuttavia appieno questo suo vivere con noi fino alla fine dei secoli, Matteo 28:20, se non approfittassimo, grazie alla lettura, alla meditazione, al desiderio di applicarli alla nostra vita, della grande ricchezza dei libri sacri. Non invano, per scuoterci dalla nostra eventuale negligenza o leggerezza, la liturgia stabilisce che si proclami alla fine delle letture parola di Dio. Ciò esprime l'interesse per il modo in cui il Signore si è preso cura e si prende cura del suo popolo. Nella celebrazione eucaristica, la liturgia della parola compie un'importante funzione illuminante. In merito, Giovanni Paolo II affermava: «È significativo che i due discepoli di Emmaus, convenientemente preparati dalle parole del Signore, lo abbiano riconosciuto mentre stavano a mensa nel gesto semplice della frazione del pane. Una volta che le menti sono illuminate e i cuori riscaldati, i segni parlano». L'Eucaristia si svolge tutta nel contesto dinamico di segni che recano in sé un denso e luminoso messaggio, e attraverso i segni che il mistero in qualche modo si apre agli occhi del credente. Dobbiamo dare tutto il dovuto rilievo a ogni gesto e a ogni parola della celebrazione eucaristica, curando il raccoglimento esteriore e interiore. Ritengo che la ripetizione insistente di questa idea sia utile per comprendere fino in fondo che la Santa Messa è il più grande tesoro che la Santissima Trinità ha donato all'umanità. Occorre chiederci se il rito al quale assistiamo ci incoraggia a ravvivare la consapevolezza della presenza di Dio che passa così vicino a noi. Chiediamoci altresì se ci interessiamo con sincerità e diligentemente a ogni momento della Messa. Infine, rettifichiamo la nostra intenzione con dolore d'amore, quando ci rendiamo conto che ci siamo distratti. In continuità con un'antica tradizione della Chiesa, San Cosimaria consigliava di sforzarsi quotidianamente di celebrare o di partecipare, digne, attente, ac devote, alla Santa Messa. Degnamente, attentamente, devotamente. Renditi conto che è il rinnovamento del sacrificio divino del Calvario, che il sacerdote non è Tizio o Caio, oppure il padre Sempronio, ma lo stesso Cristo, ipse Christus. Lui consacra il suo corpo e il suo sangue. Perciò, tu assisti a un'azione divina, a un atto meraviglioso che si perpetua nei secoli, perché Cristo vive. Prima lettura. Dio parla agli uomini. In questa relazione tra Dio e gli uomini, che è la liturgia, l'iniziativa appartiene al Signore. La prima lettura, tratta generalmente dall'Antico Testamento, ci presenta il Padre Celeste che si volge benignamente verso i suoi figli. Non dimentichiamo mai che quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella sua parola, annuncia il Vangelo. Ordinamento generale del Messale Romano, numero 29. La parola di Dio, per essere ben compresa, deve essere ascoltata ed accolta con spirito ecclesiale e nella consapevolezza della sua unità con il sacramento eucaristico. Infatti, la parola che annunciamo ed ascoltiamo è il Verbo fatto carne, Giovanni 1,14, ed ha un intrinseco riferimento alla persona di Cristo e alla modalità sacramentale della sua permanenza. Cristo non parla nel passato, ma nel nostro presente, come egli è presente nell'azione liturgica. La considerazione che Dio stesso parla al suo popolo è quanto mai opportuna per prendere rinnovata coscienza di questa realtà. Dobbiamo tenerne conto senza timore, contrariamente a quanto accadeva agli israeliti. Dobbiamo meditare profondamente sull'impegno con il quale il Signore volle e ancora oggi vuole aprire la strada al suo popolo. Lo libera da una schiavitù tremenda, lo protegge, guida quella moltitudine attraverso il deserto. Contemporaneamente occorre fare attenzione alla nostra durezza di cuore, alle nostre ribellioni contro la volontà divina, al nostro dare poca importanza alla continua sollecitudine del Creatore nei nostri confronti. Proprio per questo, proprio perché la parola di Dio non è incatenata, seconda Timoteo 2,9, la parola si dimostra capace di colpire nel profondo l'animo in qualsiasi istante, provocando ammirabili cambiamenti. Questo è reso possibile dalla grazia divina, ma anche dalla preparazione e dal fervore di chi la legge e la medita, di chi la ascolta. Per mezzo delle sante scritture, in effetti, siamo portati a compiere azioni virtuose, come altresì alla pura contemplazione. Dato che sono inserite nella celebrazione sacramentale della morte e risurrezione di Cristo, le letture bibliche acquisiscono nella Messa un'attualità nuova. Trascendono le coordinate spazio-temporali nel quale furono pronunciate e allo stesso tempo si adattano alla situazione concreta dei fedeli convocati da Cristo alla sua presenza. Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e discorre con essi. Nella parola di Dio, poi, è insita tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della Chiesa e, per i figli della Chiesa, saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. Con la sua pedagogia soprannaturale, perfezionatasi nel corso dei secoli, la Chiesa ha man mano ordinato le letture bibliche della Messa secondo un'intuizione fondamentale già esposta dai Santi Padri. Il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico, mentre l'Antico è svelato nel Nuovo. Come spiega il Concilio Vaticano II, Dio dunque, il quale ha ispirato i libri dell'Uno e dell'Altro Testamento e ne è l'autore, ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nel Vecchio e il Vecchio diventasse chiaro nel Nuovo. Poiché anche se Cristo ha fondato la nuova alleanza nel sangue suo, Luca 22,20, 1 Corinti 11,25, tuttavia i libri del Vecchio Testamento, integralmente assunti nella predicazione evangelica, acquistano e manifestano il loro pieno significato nel Nuovo Testamento. Matteo 5,17, Luca 24,27, Romani 16,25-26, 2 Corinzi 3,14-16, che essi d'altro canto illuminano e spiegano. Affinché gli immensi tesori della Bibbia siano messi più abbondantemente a profitto, il Concilio Vaticano II ha decretato che venga accresciuto il numero e la varietà dei passi biblici utilizzati nella Messa, in modo che in un determinato numero di anni si legano al popolo le parti più importanti della Sacra Scrittura. Questo desiderio è divenuto realtà ma si rivelerebbe vano se ciascuno non si sforzasse di valersene a proprio beneficio. Da un lato per conoscere meglio la scrittura. In effetti, come insegna San Girolamo, colui che non conosce le scritture non conosce la potenza di Dio né la sua sapienza. L'ignoranza delle scritture, infatti, è ignoranza di Cristo. D'altro canto, la conoscenza in sé non basta. Bisogna impregnarsi della sacra dottrina, assimilarla nella propria vita e metterla in pratica. Benedetto XVI raccomanda in proposito: a questo scopo è necessario che i fedeli siano aiutati ad apprezzare i tesori della Sacra Scrittura presenti nel lezionario attraverso iniziative pastorali, celebrazioni della parola e la lettura orante, lectio divina. Inoltre, non si dimentichi di promuovere le forme di preghiera confermate dalla tradizione. La preghiera dei salmi, le letture bibliche e quelle della grande tradizione presentate nell'ufficio divino possono condurre ad un'approfondita esperienza dell'avvenimento di Cristo e dell'economia della salvezza, che a sua volta può arricchire la comprensione e la partecipazione alla celebrazione eucaristica. Siamo stati in molti a essere testimoni del modo in cui San Josemaria si impegnava a fondo nelle letture della Messa. Lo si percepiva persino dal tono della sua voce. Spesso accadeva questo. Dopo il santo sacrificio appuntava le frasi che lo avevano colpito più profondamente per considerarle nella sua preghiera personale. In questo modo la sua vita interiore e la sua predicazione si arricchivano costantemente. Cerchiamo di imitare un maestro così esemplare. Dio si è rivelato a noi affinché lo conosciamo di più e meglio e affinché lo facciamo conoscere con naturalezza, senza rispetti umani, attivandoci in un apostolato sincero con le persone che incontriamo.